Noi siamo particolarmente orgogliosi di aver organizzato la scorsa settimana a Milano il primo forum insieme alla FAO sul coinvolgimento del settore privato, delle grandi imprese alimentari nazionali e internazionali su questo tema. E abbiamo prodotto e hanno prodotto, il settore privato ha prodotto la cosiddetta Carta di Milano, che è un impegno che le imprese si assumono, quindi il settore privato si assume nel dare un contributo alla soluzione della fame nel mondo. D'altra parte, sottolineo il nostro piacere di aver organizzato per la prima volta questo incontro tra istituzioni pubbliche internazionali e il mondo privato, perché credo che il mondo privato possa dare un contributo importante alla soluzione della nutrizione nel mondo intero, anche perché hanno le risorse umane, finanziarie, di competenza, tecnologiche, di presenza geografica. Loro conoscono i problemi e la Carta di Milano dichiarano solennemente di essere disposti a essere parte della soluzione. Quindi ecco il piacere nostro di aver come Expo, perché il tema dell'Expo, lo ricordo, è nutrire il pianeta, energie per la vita, quindi stiamo già realizzando l'Expo, inteso non solo come una manifestazione di 6 mesi nel 2015, ma come un percorso che è già cominciato con l'evento di Milano la scorsa settimana e che vedrà momenti di lavoro con la FAO e con il settore privato sempre su questo tema della fame nel mondo nei prossimi mesi, e avremo ogni anno un incontro per verificare i progressi fatti.